È iniziata da una decina di minuti la conferenza stampa che è stata indetta dall'undicesimo municipio di Roma per spiegare il caso di boicottaggio che appunto l'undicesimo municipio di Roma con un ordine del giorno ha approvato rispetto ai prodotti della Coca-Cola. Il boicottaggio non è soltanto una questione di prodotto alimentare, al contrario il boicottaggio è stato deciso in seguito alla scoperta di un comportamento della Coca-Cola nei paesi del Sud America che viola i diritti umanitari di molti lavoratori che lavorano negli stabilimenti Coca-Cola. Infatti proprio a questa conferenza stampa è importante la presenza del sindacato colombiano Sinaltrainal. Il sindacato raggruppa tutti i lavoratori degli stabilimenti Coca-Cola che vivono un continuo sfruttamento e continuano a lavorare in questi stabilimenti sotto la minaccia di gruppi paramilitari. Il Sinaltrainal in questo momento proprio sta parlando un sindacalista, Edgar Paez, denuncia la connivenza tra la Coca-Cola e i gruppi paramilitari che minacciano e sono arrivati ad uccidere dipendenti e sindacalisti che lavorano appunto negli stabilimenti Coca-Cola, addirittura all'interno degli stessi stabilimenti. Edgar Paez sta facendo un elenco lungo e triste di morti assassinati da gruppi paramilitari, anche dentro gli stabilimenti Coca-Cola, come dicevamo appunto prima, e rapimenti e morti che si sono verificati nella maggior parte dei casi proprio durante i dialoghi, le vertenze tra Coca-Cola e sindacato. Quello che denuncia il Sinaltrainal è che la Coca-Cola usi i gruppi paramilitari, anche assumendone componenti all'interno degli stabilimenti, per intimorire e minacciare i lavoratori e quindi per farli vivere uno stato di lavorativo sempre precario, sotto le minacce, per non avere problemi sindacali all'interno del paese. La Colombia chiaramente è un paese che ha diversi problemi di ordine pubblico, quindi anche all'interno dei posti di lavoro queste cose si verificano. E dopo l'intervento di Edgar Paez dovrebbe intervenire e rispondere a queste accuse, a queste minacce, il direttore delle relazioni estere per la Coca-Cola Company Italia, Nicola Raffa. Molto atteso il suo intervento dopo tutte le polemiche rispetto alla scelta del undicesimo municipio di Roma di boicottare prodotti Coca-Cola all'interno dei suoi uffici, un boicottaggio che è stato più volte attaccato dalla stampa e che è stato tacciato di scelta ideologica proprio dalla Coca-Cola Italia. Dopo l'intervento di Nicola Raffa interverranno anche onorevoli e deputati che hanno appoggiato la scelta dell'undicesimo municipio di Roma, tra cui il senatore Martone della Commissione Diritti Umani al Senato e poi anche naturalmente assessori dell'undicesimo municipio e ovviamente il presidente dell'undicesimo municipio Smeriglio e l'assessore Gianluca Peciola, che tra l'altro è il moderatore del dibattito. Dall'undicesimo municipio è tutto, per Amisnet Sonia Grieco.